noi ci mettiamo, diciamo, attendiamo 150 giorni in più rispetto ai tradizionali termini di pagamento, quindi se fosse 60-90 il termine di pagamento, lei ci aggiunge 150. Quindi si va a 210 o 240, sì, insomma. Sì. Quanto vuol dire poi in termini numerici per le vostre imprese, per le imprese associate? Se noi guardiamo le nostre imprese, ben l'88% delle imprese sono state colpite da ritardi di pagamenti. Se le imprese sono 1250 oggi, vuol dire che 1000 imprese, che tra l'altro occupano 420.000 addetti, quindi per 400.000 addetti ci sono un anno di attesa. Insomma, un dato positivo che va comunque segnalato, poi le ferrovie hanno cominciato a rimettersi a pagare l'anno scorso, alla fine dell'anno, quindi nei nostri settori almeno chi ha avuto ordini dalle ferrovie dello Stato verso la metà di dicembre hanno cominciato a incassare, quindi c'è stato un po' più di si è calmierato un po' almeno quel gruppo di associazioni, ma anche le imprese private pagano con un estremo ritardo. Sì, abbiamo visto purtroppo che si stanno allungando i tempi di pagamento delle imprese private, questo non è un bel... quando le statistiche dicono 45 giorni oltre i termini di pagamento, diciamo i termini di pagamento oggi sono arrivati a 120 giorni, quindi siamo ancora sui 160-200 giorni di ritardo. Con le banche che accettano purtroppo, ahimè, malvolentieri i contratti per scontare gli ordini e quindi dare le possibilità comunque alle imprese pagando interessi in ogni caso. Ecco, chiudiamo sulle banche, perché dicevo, da un lato voi vantate crediti, dall'altro però il sistema bancario a sua volta vanta crediti nei vostri confronti, cioè vi ha prestato soldi per un totale di 13 miliardi e mezzo di euro, di cui, stando ai dati della Banca d'Italia, 1 miliardo e 700 milioni in sofferenza, cioè vuol dire crediti che diventano di difficile esigibilità. Negli ultimi 18 mesi i prestiti sono calati, tra l'altro i prestiti a voi, alle imprese elettroniche ed elettrotecnica, di 1 miliardo e mezzo, però le sofferenze sono aumentate di 200 milioni. Cosa chiedete alle banche? Ma intanto alle banche noi chiediamo di essere assolutamente non più elastiche, perché le verifiche devono essere fatte assolutamente per cercare di vedere se le imprese poi alla fine sono sane e poi riescono a restituire il debito nei tempi previsti e così via. Dalle banche chiediamo un minimo di flessibilità.